Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Un anticipo della lieta accoglienza che Nicole ed io avremmo ricevuto in sala da pranzo ci venne dato da Perotti, in attesa nel vestibolo. Appena ci vide scendere dallo scalone, seguiti da Ior, ci rivolse un sorriso straordinariamente compiaciuto, quasi complice. In altra occasione il suo comportamento mi avrebbe urtato, me ne sarei sentito offeso. Ma da qualche minuto mi trovavo in una disposizione di spirito particolare. Soffocando dentro me stesso ogni ragione di inquietudine, andavo avanti ricco d'una strana leggerezza, come trasportato da ali invisibili. In fondo Perotti era un brav'uomo, pensavo. Era contento anche lui che la signorina fosse tornata a casa. Gli si poteva dar torto, povero vecchio. D'ora in poi avrebbe certamente smesso di brontolare. Ci presentammo affiancati sulla soglia della sala da pranzo e la nostra apparizione fu salutata, come dico, con grande festa. I volti di tutti i commensali erano rosei, accesi. Tutti gli sguardi, appuntandosi su di noi, esprimevano simpatia e benevolenza. Ma anche la stanza, così come mi si mostrò d'un tratto quella sera, mi parve più accogliente e calda del solito, in qualche modo rosea anche essa nel legno biondo e levigato dei suoi mobili, dai quali la fiamma alta, lingueggiante del camino suscitava teneri riflessi color carne. Non l'avevo mai vista così illuminata la sala da pranzo. A parte il bagliore che si sprigionava dalla bocca del camino, sulla tavola, ricoperta tuttora da una ricca tovaglia di lino bianchissimo, piatti e stoviglie erano già stati portati via, evidentemente, la grossa corolla capovolta del lume centrale rovesciava una vera e propria cateratta di luce. «Avanti, avanti, ben arrivato! Cominciavamo a credere che non ti saresti voluto scomodare!» Era stato Alberto a pronunciare quest'ultima frase, ma lo sentivo, la mia venuta lo riempiva di contentezza autentica. Tutti guardavano me, particolarmente. Chi, come il professor Ermanno, girandosi completamente sulla seggiola, chi accostandosi col petto all'orlo del tavolo, o invece respingendolo da sé, a braccia rigide, chi, infine, come la signora Olga, la quale sedeva a capotavola là in fondo, col fuoco del camino alle spalle, sporgendo il viso e socchiudendo le palpebre. Mi osservavano, mi esaminavano, mi squadravano da capo a piedi e parevano tutti assai soddisfatti di me, della figura che facevo al fianco di Nicole. Il solo Federico Herrera, l'ingegnere delle ferrovie, tardò un attimo a uniformarsi al compiacimento generale, e ciò senza dubbio perché non ricordava chi io fossi. Ma fu questione di un momento. Assunte informazioni dal fratello Giulio, li vidi confabulare brevemente, avvicinando l'una all'altra le teste calve dietro le spalle della vecchia madre, moltiplicò subito nei miei confronti le dimostrazioni di simpatia. Non soltanto fece con la bocca una smorfia che gli scoprì i grossi incisivi superiori, ma alzò addirittura un braccio in un gesto più che di saluto, di solidarietà, di incitamento quasi sportivo. Il professor Ermanno insistette perché sedessi alla sua destra. «Era il mio solito posto», spiegò a Nicole, che frattanto si era seduta alla sua sinistra, di fronte a me, quello che occupavo abitualmente quando mi trattenevo a cena. Giampiero Malnate, aggiunse poi l'amico di Alberto, sedeva invece là, indicò dove, alla destra della mamma. E Nicole stava ad ascoltare, con un'aria curiosa, frappiccata e sardonica, come se le dispiacesse constatare che la vita della famiglia, lei assente, era continuata a svolgersi secondo direzioni da lei non del tutto prevedute, e insieme soddisfatta che le cose fossero andate appunto in quel modo. Sedetti, e subito, meravigliato di aver veduto male, mi resi conto che la tovaglia non era affatto sgombra. Nel mezzo del tavolo c'era un grande, sottile vassoio d'argento, e al centro del vassoio, contornato a due palmi di distanza da una raggiera di pezzetti di cartoncino bianco, ognuno dei quali recava, scritto a lapis rosso, una lettera dell'alfabeto, spiccava solitario un calice di champagne. E quello cos'è? Chiesi ad Alberto. Ma è la grande sorpresa che ti avevo detto, esclamò Alberto. È semplicemente formidabile. Basta che 3 o 4 persone in circolo mettano il dito sull'orlo di questo calice e subito lui, su e giù, una lettera dopo l'altra, risponde. Risponde? Certo, scrive, ad agio, tutte le risposte. E sensate, sai, non puoi nemmeno immaginare come sensate. Da tempo non avevo visto Alberto così euforico, così eccitato. E da dove viene, domandai, questa bella novità? Oh, non è che un gioco, interloquì il professor Ermanno, posandomi una mano sul braccio e scuotendo il capo. Roba che Nicole ha portato giù da Venezia. Ah, allora sei tu la responsabile, feci rivolto a Nicole. E legge anche nel futuro il tuo calice? Come no, esclamò lei con un ammicco malizioso. Ti dirò, anzi, che la sua specialità è proprio questa. Entrò in quel momento la Dirce, la quale teneva alto, in equilibrio, su una mano sola, un tondo di legno scuro, stracarico di dolci di Pasqua. Anche le guance della Dirce erano rosee, lustre di salute e di buon umore. Come ospite e ultimo arrivato, fui servito per primo. I dolci, i cosiddetti zuccherin, fatti di pasta frolla mescolata con chicchi d'uva passa, erano pressappoco uguali a quelli che avevo assaggiato di malavoglia poco prima, a casa mia. Tuttavia questi, di casa Finzi Contini, mi parvero subito molto migliori, straordinariamente gustosi. E lo dissi anche, rivolto alla signora Olga, la quale, impegnata a scegliere uno zuccherin dal piatto che la Dirce le porgeva, non sembrò accorgersi del mio complimento. Intervenne quindi Perotti, con le grosse mani da contadino afferrate ai bordi di una seconda guantiera, di peltro questa, che aveva sopra un fiasco di vino bianco e bicchieri per tutti. E mentre poi stavamo così, seduti compostamente attorno al tavolo, ciascuno bevendo albana a piccoli sorsi e sbocconcellando zuccherin, Alberto veniva illustrando, a me in particolare, le virtù divinatorie del nappo, il quale adesso era là, in mezzo al tavolo, muto, come tutti gli onesti vers di questo mondo, però, fino a poco prima, a loro che l'avevano interrogato, si era mostrato d'una loquacità eccezionale, ammirevole. Chiesi che tipo di domande gli avessero rivolto, o di tutto un po'. Gli avevano domandato, per esempio, continuò, se lui, Alberto, un giorno o l'altro ci sarebbe riuscito a prendere la laurea in ingegneria, e il calice, pronto, aveva ribattuto con un secchissimo no. Poi Nicole aveva voluto sapere se si sarebbe sposata e quando, e qui il calice era stato molto meno perentorio, anzi, piuttosto confuso, dando un responso davvero oracolo classico, passibile, cioè delle più opposte interpretazioni. Perfino sul campo di tennis l'avevano interrogato, povero santo d'un calice, cercando di appurare se il papà l'avrebbe piantata con quella sua eterna manfrina di rimandare di anno in anno l'inizio dei lavori di sistemazione. E a questo proposito, dando prova di una buona dose di pazienza, la Pizia era tornata di bel nuovo esplicita, assicurando che le sospirate migliorie sarebbero state effettuate al più presto, dentro il corrente anno. Ma era stato in materia di politica, soprattutto, che il calice aveva compiuto meraviglie. Presto, tra pochi mesi, aveva sentenziato, sarebbe scoppiata la guerra. Una guerra che sarebbe stata lunga, sanguinosa, dolorosa per tutti, che avrebbe sconvolto il mondo intero, ma che si sarebbe conclusa alla fine, dopo molti anni di incerte battaglie, con la vittoria completa delle forze del bene. Del bene? Aveva chiesto a questo punto Nicole, che era stata sempre speciale lei per le gaffe. E quali sarebbero, per favore, le forze del bene? Al che il calice, lasciando tutti quanti di stucco, aveva replicato con una sola parola: Stalin. «Te lo immagini!» esclamò Alberto, mentre tutti gli altri ridevano. «Te lo immagini! Come sarebbe stato contento il Giampi se fosse stato presente? Voglio scriverglielo!» «Non è a Ferrara?» «No, è partito l'altro ieri. È andato a passar Pasqua a casa.» Alberto seguitò ancora abbastanza a lungo a riferire su ciò che aveva detto il calice, dopodiché il gioco venne ripreso. Anche io fui incitato a porre il mio indice sull'orlo del nappo. Anche io feci domande e attesi risposte. Ma adesso, chissà perché, dall'oracolo non veniva più fuori nulla di comprensibile. Alberto aveva un bel insistere, tenace e caparbio come mai. Niente. Io, ad ogni modo, non me ne davo troppo per inteso. Più che badare a lui e al gioco del calice, guardavo attorno, alla sala da pranzo, e fuori, attraverso il grande oblò che dava sul parco, e Nicole, soprattutto, seduta di fronte a me, dall'altra parte del tavolo. Nicole, che di tanto in tanto, sentendosi addosso il mio sguardo, spianava la fronte accigliata di quando giocava a tennis per dedicarmi un rapido sorriso pensieroso, rassicurante. Fissavo le sue labbra, tinte appena di rossetto. Le avevo baciate proprio io, sì, poco fa. Ma non era stato troppo tardi? Perché non l'avevo fatto 6 mesi prima, quando tutto era ancora possibile, o almeno durante l'inverno? Quanto tempo avevamo perduto, io qui a Ferrara e lei a Venezia. Avrei potuto benissimo prendere il treno una domenica e andare a trovarla. C'era un diretto che partiva da Ferrara alle 8 di mattina e arrivava a Venezia alle 10:30. Appena arrivato le telefonavo dalla stazione, proponendole che mi portasse al Lido, così, tra l'altro, le dicevo, avrei finalmente visitato il famoso cimitero israelitico di San Nicolò. Più tardi facevamo colazione assieme, sempre da quelle parti, e dopo, previa telefonata a casa degli zii per tener buona la Fräulein, il viso di Nicole mentre telefonava, le sue boccacce, le sue smorfie buffonesche, dopo andavamo a spasso lungo la spiaggia deserta. Anche per questo c'era tutto il tempo. Quanto poi alla partenza, avevo a disposizione 2 treni, uno alle 5 e uno alle 7, a scelta. L'uno e l'altro ottimi, perché neanche i miei si accorgessero di niente. Eh sì, a farlo allora, quando dovevo, tutto ciò sarebbe stato ben facile. Uno scherzo sarebbe stato. Mentre adesso era tardi, invece, terribilmente tardi. Che ora era? 1:30, magari le 2. Tra poco sarei dovuto andare e probabilmente Nicole mi avrebbe riaccompagnato giù, fin sulla porta del giardino. Forse era a questo che stava pensando anche lei. Era questo che l'inquietava. Stanza dopo stanza, corridoio dopo corridoio, avremmo camminato uno a fianco dell'altro senza aver più il coraggio né di guardarci né di scambiare una parola. Temevamo entrambi la stessa cosa, lo sentivo, il commiato, il punto sempre più vicino e sempre meno immaginabile del commiato, del bacio d'addio. E tuttavia, se per ipotesi Nicole avesse rinunciato ad accompagnarmi, lasciando sbrigare la faccenda ad Alberto o, come di lì a poco si verificò, addirittura a Perotti, con quale animo avrei potuto affrontarlo, io, il resto della notte? E l'indomani? Ma forse no. Già tornavo a sognare, testardo e disperato. Alzarsi da tavola forse era inutile, non era necessario. Quella notte, tanto, non sarebbe finita mai. Subito, l'indomani stesso, cominciai a rendermi conto che mi sarebbe stato molto difficile ristabilire con Nicole gli antichi rapporti. Dopo lungo esitare, verso le 10 provai a telefonarle. Mi venne risposto dalla dirce che i signorini erano ancora in camera e che fossi tanto gentile di richiamare sul mezzogiorno. Per ingannare l'attesa, mi buttai sul letto. Avevo preso un libro a caso, Le Rouge et le Noir, ma per quanto cercassi non riuscivo a concentrarmi. E se a mezzogiorno fantasticavo non li avessi telefonato? In breve però cambiai idea. D'un tratto m'era sembrato di desiderare da Nicole un'unica cosa, ormai, la sua amicizia. Piuttosto che sparire, mi dicevo, era molto meglio che mi regolassi come se la sera avanti non fosse accaduto nulla. Nicole, lei, avrebbe compreso. Colpita dal mio tatto, pienamente rassicurata, ben presto mi avrebbe restituito intera la sua fiducia, la sua cara confidenza di un tempo. Così, a mezzogiorno in punto, mi diedi coraggio e composi per la seconda volta il numero di Cassa Finzi Contini. Mi toccò attendere a lungo, più a lungo del solito. «Pronto», dissi alla fine, con la voce rotta dall'emozione. «Ah, sei tu?» Era proprio la voce di Nicole. Sbadigliò. «Che cosa c'è?» Sconcertato, vuoto d'argomenti, sul momento non trovai niente di meglio da dire che avevo telefonato già una volta, 2 ore prima. Era stata la Dirce, aggiunsi balbettando, a suggerirmi di richiamare verso mezzogiorno. Nicole stette ad ascoltare. Cominciò quindi a lagnarsi della giornata che le stava di fronte, con tante cose da mettere a posto dopo mesi e mesi di lontananza, valigie da disfare, libri e carte da riordinare, eccetera, eccetera, e con la prospettiva finale, per lei non precisamente allettante, di una seconda agape. «Ecco il guaio di ogni distacco», brontolò, che poi, a rimettersi in carreggiata, a ripigliare il solito tran tran, uno impiegava una fatica anche maggiore di quella già notevole che aveva dovuto affrontare per togliersi di mezzo. «Se lei si sarebbe fatta vedere più tardi al tempio?» domandò in risposta a una mia timida richiesta. «Chissà, forse sì, ma forse anche no. Adesso come adesso, certo, non si sentiva affatto di garantirmelo». Riagganciò, senza invitarmi a tornare da loro la sera. E senza stabilire come e quando ci saremmo riveduti. Quel giorno evitai di richiamarla, e perfino d'andare al tempio, anche se là, come mi aveva detto, c'era qualche probabilità che la incontrasse. Verso le 7, tuttavia, passando da via Mazzini e notando la di lambda grigia dei Finzi Contini ferma dietro l'angolo di via Scienze dalla parte dei Sassi, con Perotti in berretto e divisa da autista seduto al volante in attesa, non resistetti alla tentazione di appostarmi all'imbocco di via Vittoria e di aspettare. Aspettai a lungo, nel freddo pungente. Era l'ora del più intenso passeggio serale, quello che precede la cena. Lungo i 2 marciapiedi di via Mazzini, ingombri di neve sporca e già mezzo sfatta, una folla di gente si affrettava in entrambe le direzioni. Alla fine fui premiato, perché al termine della funzione, sia pure di lontano, la vidi improvvisamente sbucare dal portone del tempio e sostare sola sulla soglia. Indossava una corta pelliccia di leopardo stretta alla vita da una cintura di cuoio e i capelli biondi splendenti nella luce delle vetrine guardava di qua e di là, come se cercasse qualcuno. Senza minimamente curarsi dei molti passanti che si voltavano stupiti ad ammirarla, era me che cercava, forse. Stavo per uscire dall'ombra e farmi avanti, quando i parenti, che evidentemente l'avevano seguita a distanza giù per le scale, sopraggiunsero in gruppo alle sue spalle. C'erano tutti, la nonna Regina compresa. Girando sui tacchi, mi allontanai a rapidi passi, giù per via Vittoria. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.